Ciao a tutti, buonasera, grazie per essere qua. Io sono Diego del collettivo Antipsica di Antonio Artoni e insieme alla biblioteca Franco Serrantini presentiamo Divieto di Infanzia, Psichiatria, Controllo e Profitto di Chiara Gazzola e Sebastiano Orto. Le edizioni sono appunto della Serrantini, la biblioteca finalmente nel suo quarantennale, nel quarantennale della biblioteca è riuscita a ottenere finalmente un posto, quindi la biblioteca è tornata viva. È tornata a Pisa ed è tornata con una sede, quindi la biblioteca c'è, resiste e andrà avanti. Qui la biblioteca Franco Serrantini è attiva. E, no, inizio cambiando totalmente il discorso. Oggi si parla di bambini, di meritizzazione nella scuola, di psichiatrizzazione dell'infanzia. Però io inizio ricordandovi una data, che è il 13 agosto 2019. Il 13 agosto scorso moriva all'età di 19 anni Elena Casetto nell'ospedale di Bergamo. È preso fuoco l'ospedale, sono bruciati dei reparti, fra cui l'SPDC, il reparto di psichiatria, e la Elena si trovava legata al letto di contenzione ed è morta viva. Quindi noi iniziamo così, con i brividi e con la rabbia, perché questa è la stessa cosa che è successa nel 73 ad Antonio Bernardini nel manicomio di Pozzuoli. Arsa viva, bruciata a letto dopo 43 giorni di contenzione. E in questo paese non cambia nulla. Questo. E niente, ora noi stiamo cercando di contattare la famiglia, insieme agli altri collettivi, andremo su e cercheremo di fare attenzione sulla vicenda. Una vicenda terribile, orribile, perché Cirpiglia fa un reparto, la prima cosa da fare è andare quantomeno a slegare chi è legato. E l'unica cosa che vi posso dire in attesa della procura e di parlare con i familiari è, se non era legata, sicuramente non sarebbe morta. Questa è l'unica cosa certa. Attenderemo di vedere i video delle telecamere e di capire com'è andata. Questo è lo stato dell'arte in Italia dentro gli SPDC, cioè c'è la contenzione meccanica tutt'oggi. E niente. La prima edizione del libro, che è Divieto di Infanzia, è del 2008. E lanciava l'allarme sulla prescrizione degli psicofarmaci agli adolescenti e bambini. L'edizione aggiornata, che è quello del libro che presentiamo oggi, fa i conti con un progressivo aumento del consumo di psicofarmaci a tutta la popolazione mondiale. Questa edizione, gli aggiornamenti erano fondamentali anche perché nel 2013 è stata fatta la quinta edizione del DSM. Il DSM è il manuale statistico e diagnostico con cui i psichiatri fanno le diagnosi. È scritto dall'APA, che è l'Associazione Psichiatrica Americana, è un manuale su dove loro fanno le diagnosi. Questo inserimento di nuove categorie diagnostiche ha fatto sì che ci sia stato un aumento delle diagnosi sui bambini. Attraverso il DSM la psichiatria traccia una linea di confine tra ciò che è normale e ciò che non lo è. Questo allargamento di confine appunto ha previsto che più bambini finissero in psichiatria. A scuola sono sempre di più bambini che hanno una diagnosi psichiatrica, e come disturbo dell'adattamento, dell'attenzione, iperattività, anche come disturbo bipolare o depressione. Diciamo negli ultimi 30 anni ha vinto il paradigma biologico, per cui si dice che c'è qualcosa nel cervello dei bambini che non va e che devono prendere gli psicofarmaci, forse per il resto della loro vita. Io a scuola ci lavoro, faccio l'educatore, e ho a che fare sia con l'insegnante sostegno che con ragazzi, e vedo appunto questo dilagare di certificazione e diagnosi, soprattutto sui comportamenti. Diciamo che il disagio comportamentale, invece di essere valutato come un campanello d'allarme nella relazione, è valutato come qualcosa che non va nel cervello del bambino, e quindi si dispensa da un lato l'educatore e l'insegnante da modificare l'approccio e si delega alla psichiatria, all'esperto, al neuropsichiatra, la gestione del disagio. Quindi invece secondo noi educare o insegnare vuol dire avere una relazione con gli altri fondamentalmente, e se c'hai 25 bambini devi avere 25 relazioni differenti, e esistono approcci, metodi, risorse differenti rispetto a fare le certificazioni. E io quando vado a scuola l'insegnante a volte dice: noi dobbiamo certificare che il bimbo è malato, lo devi dire anche te che gli ha fatto diagnosi di iperattività, perché così ci danno l'insegnante sostegno. Cioè, e io a me mi piange il cuore, perché dico: ma come? L'unica risorsa e farsi la certificazione. Invece sta a noi, sta a noi sostenere gli insegnanti, sta a noi sostenere gli educatori, ma sta a noi anche rimboccarsi le maniche e cercare di andare a comprendere, avere una relazione e in qualche maniera integrare e lavorare per l'integrazione del bimbo con la classe e per la gestione dei conflitti fondamentalmente, o comunque del disagio. Invece senza delegare alla psichiatria, che in qualche maniera riduce, no, a un problema organico dei comportamenti sofferenti, che molto spesso appunto sono le relazioni o l'ambiente o varie situazioni che non vanno. E niente, lascio la parola a Chiara e Sebastiano e li ringrazio. Noi come Collettivo Artù, per noi questo è il libro nostro che noi sentiamo e che è piaciuto tantissimo e che insomma, vogliamo continuare a portarlo a giro per l'Italia. Concludo che dobbiamo appunto cercare di non cedere al riduzionismo psichiatrico e a non psichiatrizzare i comportamenti, insomma, anche quelli disturbanti o sofferenti. Cioè dobbiamo, secondo me, rapportarci all'altro anche se insomma, c'è difficoltà, disagio, sofferenza senza etichette. Secondo me bisogna approcciarsi in qualunque modo agli altri, anche se sono stronzo, insomma, però senza etichette, senza far diagnosi psichiatriche, quantomeno il collettivo cerca di fare questo. Scusate, non volevo pestare l'orologio. Ciao a tutte e a tutti. Sì, questa è l'edizione aggiornata del divieto d'infanzia, nel senso che nel momento in cui con Franco di BFS si è sentita l'esigenza della ristampa, abbiamo appunto sentito ancora di più l'esigenza di un aggiornamento, perché in questi 10 anni di cose ne sono successe molte. E per gli aggiornamenti ho chiesto appunto la collaborazione di Sebastiano, perché l'ingerenza dell'istituzione sanitaria all'interno dell'istituzione scolastica è sempre più forte, è voluta proprio da dei paradigmi ideologici, non è casuale la cosa. E allora, visto che io nella scuola ci lavoro pochissimo, nel senso che contatti con qualche, così, vabbè, al di là della mia storia personale, comunque non ci lavoro fissa, ecco, lui invece è un insegnante, e quindi lo sguardo era più attento, più preciso, e la nostra collaborazione direi che è andata benissimo, compresa quella con Diego che ci sostiene. E questo non perché cerchiamo il successo, ovviamente, ma perché purtroppo la tematica è veramente sempre più di emergenza. Se 10 anni fa c'era questa emergenza perché era appena finito il progetto Prisma, in Italia avevano da poco reinserito il metilfenidato, conosciuto come Ritalin, nome commerciale. Il metilfenidato è il farmaco elettivo per la DHD, e anche lì c'erano in aumento le diagnosi. Nella prima edizione si parla già del progetto Prisma, perché era già concluso, che è appunto la sperimentazione fatta su alcune zone, alcune province italiane. Poi però la cosa è proseguita, sempre con le stesse modalità. E poi cos'è successo? Che sono uscite le linee guida, sempre da parte di, proposte sempre dagli stessi fautori della reintroduzione del Ritalin e dell'aumento delle diagnosi di ADHD, e dopodiché invece nel 2009 è uscito il protocollo e nel 2016 il registro. E il registro era proprio per il farmaco, registro ADHD. Questo significa, questo perché è successo? Perché il metilfenidato era in tabella 1 e attualmente, cioè significa farmaco paragonato, associato a sostanze molto forti come eroina, e altre sostanze psicotrope. In Italia l'hanno declassato in tabella 4, però ci hanno poi reso obbligatorio un piano terapeutico con un monitoraggio da fare ogni 6 mesi sui bambini diagnosticati ADHD, e quindi si presumeva una situazione di questo tipo, cioè che comunque ci fosse stato un monitoraggio bello attento e dei dati belli precisi, cosa che non è successa, perché il registro che esce nel 2016 dopo 10 anni, se non 12, di diagnosi e terapie con metilfenidato oppure la tomoxetina, che è il farmaco sostitutivo, di fatto non inserisce nel registro ufficiale tutti i casi diagnosticati, ma solo quelli che vengono denominati a trattamento combinato, cioè il famoso biopsicosociale, dico famoso perché chi ha a che fare con queste con le cartelle cliniche o comunque con queste situazioni, questo biopsicosociale torna sempre fuori. Cosa significa? Significa va bene il trattamento farmacologico, ma ci vuole anche un approccio psicologico, educativo, di supporto alla famiglia, eccetera, eccetera. Ti fanno l'obbligatorietà del registro, però non li inseriscono tutti, inseriscono solo i fortunati, cioè quelli che hanno il trattamento biopsicosociale. Non sappiamo quanti sono i bambini, di fatto, diagnosticati ADHD e soprattutto i bambini a cui viene prescritto metilfenidato o atomoxetina. Accennato alla quinta edizione del DSM-5, cioè del DSM, cioè la quinta edizione, ed è molto importante, e infatti anche questa è un'altra delle cose che abbiamo inserito negli aggiornamenti, perché appunto sono capitati nel frattempo, no, tra la prima e la seconda edizione. Cosa fa il DSM-5 a proposito della diagnosi che riguardano l'infanzia e l'adolescenza? Più o meno la stessa procedura che fa con le diagnosi anche per gli adulti, cioè ne inseriscono tante di nuove, ma di fatto sono sempre le stesse, nel senso che hanno inserito tante nomenclature nuove, una cosa che prima si chiamava in un modo, poi diventa chiamata in un altro modo, e qui c'è tutto un passaggio di diritti, quindi soldi, ma soldi, tanti, a chi, al firmatario della nuova diagnosi, che prendono anche la percentuale poi dalle case farmaceutiche. Scusate, era un saluto dovuto. Dalle case farmaceutiche sui farmaci elettivi per una certa diagnosi. Quindi c'è un business fortissimo, sia da un punto di vista delle edizioni del DSM che vengono tradotte in tantissime lingue, e poi ci sono le edizioni ridotte, poi le edizioni più per i bambini, per gli adolescenti, per gli anziani. Cioè tutte queste sfaccettature di edizioni, ecco, c'è un giro di soldi tremendo. Quello che però a noi interessa di più è capire appunto quello che è il futuro delle nuove generazioni, perché se in un DSM, che è comunque, anche se non è l'unico manuale esistente delle patologie psichiatriche, però è il più seguito, è quello che fa proprio scuola, fa proprio Vangelo anche nelle accademie, e lì ti inseriscono tante diagnosi sfaccettate per sintomatologie, tanto che succede che proprio con questo sistema aumenta la possibilità per i neuropsichiatri di andare a diagnosticare comorbidità, cioè più diagnosi, è proprio un puzzle, una specie di sovrapposizione labirintica di sintomi, in modo che in un modo o nell'altro ci beccano secondo loro, no? Poi è facile passare da uno all'altro, cioè non ti dico tu sei schizofrenico, o meglio, oppure quella bambina è depressa, e lì lo dico al femminile perché la depressione sembra che sia una cosa così, no? Solo per le donne, e iniziano a diagnosticarla da 2 anni di età. Però magari non ti dicono proprio la depressione, ti vanno a ragionare e a comporre appunto questo puzzle di descrizione delle sintomatologie che poi passano da una diagnosi all'altra, definendo appunto queste comorbidità, come dicevo. E le cartelle cliniche veramente sono una cosa quasi paradossale da leggere, però una volta scritte poi il neuropsichiatra le può correggere, ma sicuramente poi non si torna mai indietro, si aumenterà la capacità sempre di descrizione, aggravati anche dagli effetti collaterali dell'uso dei farmaci, perché quelli danno ulteriori sintomi, quindi non diventa veramente un circolo vizioso e non se ne esce più. E un'altra cosa che fa il DSM, la quinta edizione, è appunto allargare lo spettro di queste sintomatologie, sempre per lo stesso motivo. Ecco, la situazione italiana non è così grave a livello di percentuali e di numeri, come lo è ovviamente negli Stati Uniti d'America, dove la cosa è iniziata già negli anni 60, o come lo è in altri paesi europei, dove ad esempio una statistica dà un aumento del 40% di uso di psicofarmaci nell'arco di anni dal 2005 al 2012. Ecco, cifre così alte in Italia ancora non ci sono, ma la tendenza è comunque quella, si arriva comunque lì, perché chi ha la facoltà di decidere i protocolli, segue quel tipo di scuola e quindi l'allarme va lanciato anche in Italia. Bisogna poi dire che con gli aggiornamenti siamo riusciti a trovare più dati rispetto a quelli che io avevo trovato 10 anni fa, però non sono mai dati precisissimi, a volte si contraddicono anche tra di loro perché dipende quale riferimento vanno a prendere, però in ogni caso sono dati tutti in aumento sul consumo dello psicofarmaco, quello sì, sempre, sia sugli adulti che sui bambini. Ecco, un'altra cosa che è inserita sia nel protocollo che nel registro ADHD, per esempio, si sminuisce molto quelli che sono gli effetti collaterali, sia del metilfenidato che della tamoxetina, tanto che c'è proprio scritto effetti collaterali modesti, andando a contraddire la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità o la Food and Drug Administration, che invece, vi dico cosa dicono, ve lo leggo così. Loro parlano di crisi maniacali e depressive con conseguenze tentativi di suicidio, gravi affezioni cardiache, ictus, morte improvvisa. Infatti ci sono state le morte improvvisa. E le organizzazioni appunto della sanità mondiale tengono ancora questa tendenza. Invece gli italiani parlano di effetti collaterali modesti, anche se sui 3.696 casi inseriti nel registro, che come ho detto sono una minima parte delle diagnosi, ci sono stati comunque 140 eventi avversi gravi, senza spiegare ulteriormente, non sappiamo quant'è la gravità, dove arriva la gravità, però 140 casi non è poco, cioè arriviamo al 4% in uno studio che tiene solo i primi 10 anni del consumo. Dunque, che altro possiamo dire? Ecco che in presenza delle certificazioni, nelle scuole è obbligo modulare poi gli strumenti didattici e i test valutativi. E questa è la cosa che preoccupa appunto chi lavora nelle scuole e anche me stessa, insomma, che anche se sono fuori, comunque questa ingerenza che c'è da parte dell'istituzione sanitaria sull'istituzione scolastica. Perché la situazione ovviamente, come sempre succede in questi argomenti, insomma, in Italia è a macchia di leopardo, dipende come agisce l'ASL, dipende il dirigente scolastico che tendenza ha, però in ogni caso questo succede con gli screening, ad esempio, che vengono magari descritti come obbligatori quando obbligatori non sono, per cui nel divieto d'infanzia aggiornato abbiamo voluto anche cercare di dare strumenti a genitori, a insegnanti per potersi opporre. Perché un insegnante non è assolutamente obbligato a compilare screening, perché questi screening poi sono quelli che aprono le porte alla neuropsichiatria. Certo, se poi la famiglia lo fa di scelta sua, un insegnante non può opporsi, ma quantomeno non è complice, ecco, cioè, quantomeno può... quello che si è capito in questi anni anche è che sia la ADHD, che tutta la sfera dei DSA, cioè dei disturbi specifici dell'apprendimento, le dislessie ad esempio, le discalculie, le disgrafie eccetera, fanno proprio da spartiacque per ulteriori diagnosi, ulteriore approccio alle difficoltà che può avere un bambino, a partire dall'apprendimento, ma dal comportamento, dalle sue sofferenze. Con questo approccio appunto che è diagnostico, è medicalizzante, come se una difficoltà non potesse essere una cosa transitoria, dovuta all'esperienza. Un bambino soffre come soffre l'adulto. E vengono anche descritte le motivazioni, anche nelle circolari ministeriali, poi Sebastiano ne parlerà meglio, ma vengono dette, ci possono essere cause sociali, cause culturali, traumi. E allora cosa c'entra la medicalizzazione? Allora agiamo come si è sempre agito, cioè tramite la relazione, tramite gli strumenti pedagogici, didattici anche, ma senza farceli imporre dall'istituzione sanitaria, perché questo succede. Anche solo col DSA, che sembrerebbe non una vera diagnosi, ma una rilevazione di una, chiamiamola, difficoltà, perché Nelle classi deve essere obbligatorio poi utilizzare determinati strumenti che vengono non dall'apparato didattico, ecco, non, ma sono imposti dall'alto, e questo alto è la psichiatria, è la sanità legata alla psichiatria con questo indirizzo. Perché non è un caso se il 12% delle certificazioni, come certificazioni le intendo tutte, dalle diagnosi, DSA, IBES, eccetera, il 12% sono ragazze e ragazzi stranieri. Quindi, se viene rilevata una difficoltà di tipo culturale, agiamo culturalmente. Invece questo non succede, purtroppo. Tra l'altro il DSM, sia sulla DHD che su altre diagnosi, che per alcune diagnosi nuove proprio dedicate all'infanzia, le inserisce, ve ne leggo alcune. Ecco, c'è per esempio il DDD1, che è il disturbo da disregolazione distruttiva dell'umore. Poi c'è il NAS, disturbo pervasivo dello sviluppo. DMDD, disordine dirompente da disregolazione dell'umore. Il TDD, disregolazione del temperamento con disforia. Ecco, voi andate a leggere le cartelle cliniche, c'è questo puzzle di acronimi, e loro via dopo. La cura è questa. E non si sa bene poi un genitore si trova tutte ste sigle, no? Tutti questi acronimi. Bisogna poi dire che la DHD, che è, io non ho spiegato che cos'è, è il deficit dell'attenzione e iperattività. Perché a questo punto anche noi dopo ci ragioniamo su acronimi, non ci si capisce quasi più, che non è bello, però è anche più spiccio. Però se la DHD, che è una delle diagnosi più vecchie, di vecchia data, perlomeno negli Stati Uniti d'America, e dove c'è il maggior numero delle diagnosi, uno dei padri della DHD, che si chiama Eisenberg, poco prima di morire, e sembra che fosse ancora un essere ragionante, ha detto chiaramente: questo è un tipico esempio di malattia fittizia. Dopo che si era però arricchito dietro questa denominazione. Ecco. Quindi, non so, l'interrogativo, oltre alla denuncia e anche a cercare di capire esattamente cosa succede nelle varie zone, perlomeno d'Italia, gli interrogativi riguardano sicuramente il rapporto fra didattica, indirizzi pedagogici e la relazione instaurata con le giovani generazioni, cercando ovviamente di dare un contributo per come la possiamo vedere noi, questa relazione, perché gli indirizzi pedagogici sappiamo che sono di vari tipi e ovviamente non sono, no, almeno per quanto mi riguarda, non mi trovano tutte concorde, perché ci sono anche i pedagogisti clinici e questi tengono corsi di aggiornamento per gli insegnanti e cercano poi di portare avanti la linea che ovviamente noi critichiamo. Ecco, vorrei aggiungere una cosa, poi do la parola a Sebastiano, poi magari ne parliamo un po' insieme. Mi ero fatta questo appunto e ve lo leggo. La politica scolastica considera spesso i paradigmi del liberalismo come una modernizzazione indelebile, asciutta, inevitabile, come se non esistesse altro criterio che l'efficientismo, di per sé discriminatorio già nelle intenzioni. Quindi produttività, obiettivi standardizzati, insistenza sulle competenze, che è un linguaggio che chi lavora nella scuola conosce bene, eliminano poi altri valori, quali la capacità critica e la rielaborazione del sapere. E quindi questa, secondo me, è la chiave di lettura di questo fenomeno. Perché se c'è questa ingerenza da parte della clinica sulla didattica e sulla pedagogia, è perché vince quel neoliberismo che si affianca al determinismo scientifico e diventano il pensiero unico, che riescono ad inserirsi anche all'interno dei programmi universitari, cercando di abolire o di dare un orientamento legato appunto al concetto di produttività, di efficientismo e quindi liberista, anche agli studi umanistici. Adesso io ve l'accenno solamente, sarebbe un discorso ampio, no, da fare questo, però è una tendenza molto pericolosa, insomma, perché ci va di mezzo quello che noi consideriamo il sapere, la cultura, la rielaborazione del sapere. Sì, vai tu che poi... Buonasera, allora, ciao a tutti e a tutte, anche da parte mia. Mi scuso un po' perché l'argomento in realtà è molto vasto e il tempo che abbiamo a disposizione, mi rendo conto, è veramente breve. Per cui bisogna un po' tagliare con l'accetta quello che sono una serie di spunti che andrebbero veramente approfonditi in molto più tempo. E forse può aiutarmi a partire dalla mia esperienza personale. Io lavoro molto con la mia esperienza personale, anche perché faccio l'insegnante, ormai l'avete capito. Sono insegnante di italiano e storia, ma nei miei, ora ho cominciato l'11° anno di lavoro nelle scuole italiane. Ho avuto modo di lavorare sia in cattedra come insegnante di italiano e storia, che, come sta succedendo ora, come insegnante di sostegno. Ora sono insegnante di sostegno e basta. Come tale devo dire che ho un'esperienza, insomma, che in 11 anni mi ha portato più volte a lavorare con medici, con psichiatri, con tutta una serie di figure professionali con cui lavoro fianco a fianco durante l'anno. Devo dire che in tantissime occasioni mi capita, sono alto 1,90 m, sono anche un po' grosso, no? E allora spesso mi vengono affidati i ragazzi, spesso sono ragazzi, uomini, maschi o anche ragazze, che sono particolarmente anche violenti, diciamo così, e hanno modo di esternare la loro personalità in una maniera che a volte richiede anche un contatto fisico pesante, ecco, mettiamolo in questo modo qua. E quindi ho lavorato con dei casi gravi, e quindi, lo dico subito, il rapporto con la parte medica fa parte anche del mio lavoro. Ci lavoro tutti i giorni e me ne giovo, come si dice, me ne giovo tantissimo. Non potrei agire come insegnante se non avessi un quadro che è medico, e lo tagliamo con l'accetta, questo per chiarire un po' di cose. Lavoro anche poi, perché lavoro in classe, non solo con gli allievi disabili, ma lavoro anche con i DSA, con i disturbi specifici di apprendimento. Non sto appiccicato al mio allievo, ho una classe di 20-30 persone, ahimè, classi pollaio ce ne sono tante, e ci sono 1, 2, 3, 4 DSA, non c'è un limite per la presenza. E lavoro accanto appunto a chi ha dislessie, discalculie, disgrafie, eccetera. E spessissimo trovo ragazzi e ragazze che hanno dei problemi o hanno, diciamo, un rapporto. La dislessia è una difficoltà nell'interpretazione del segno. Un affare fatto così potrebbe essere un serpente e poi diventa S, non si sa come. Se ci metto accanto un affare così diventa I e diventa poi sì. E chi l'ha detto? Non è facile. E non ha nulla a che fare, fra l'altro, con questioni di, qui ci metto un po' di virgolette, di cosiddetta quoziente intellettivo. La DSA è tutta un'altra cosa. Però trovo che fra tutti i ragazzi che hanno una diagnosi DSA ce ne sono diversi, diciamo così, che hanno delle difficoltà serie, nel senso che hanno problemi a stare al pari con il resto della classe, richiedono il mio aiuto, io glielo do felice, devo dire. Poi nella mia esperienza, perché parlo della mia esperienza, vedo che sia nelle disabilità, non solo nella mia esperienza, perché poi si parla, c'è la sala insegnanti che è ancora una specie piccolo luogo di scambio di esperienze, per fortuna, fino a quando c'è, e vedo anche nel dialogo che ho con i miei colleghi e le mie colleghe che c'è qualche dubbio a volte, non solo nelle... c'è qualche dubbio, ma insomma, questo ADHD, che sono i ragazzi particolarmente turbolenti, chiamiamoli così, ma io vedo che quando lo prendi in un certo modo lavora, ma è possibile che c'è addirittura una diagnosi di disabilità? La diagnosi di disabilità è una cosa seria, te la porti dietro tutta la vita, è uno stigma che ti dai da solo perché ti vedi da te come disabile e non c'è niente di, figuriamoci, non c'è assolutamente niente di male, però è problematico accettare una realtà, no? Di questo tipo. E lo stesso anche sui ragazzi e le ragazze con DSA. A volte dico, ma cioè, lo sta insieme a quegli altri della classe e vedo quando gli dico leggi questo brano, ha più o meno le stesse difficoltà di un altro che studia poco. Vedo che, malgrado sul mio piano didattico, poi vi spiego cos'è per chi non lo sa, nel piano didattico c'è scritto, guarda, non deve proprio leggere, perché altrimenti viene l'avvocato, perché poi più o meno dicono così i piani didattici, con i genitori che te lo portano, e tu magari in silenzio lo prendi da parte, dici prova un po' a leggere e vedi che, magari con difficoltà, non subito, lo devi conoscere bene, devi insegnargli ad approcciare un po' questo testo, però a volte può essere utile. E ti rendi conto che c'è qualcosa che non torna. Io me lo sono cominciato a porre sin dall'inizio della mia esperienza, 2007-2008, più o meno quando ho letto la prima edizione di Viato d'infanzia, che è un po' aperto, perché io vedevo sulle disabilità, anno dopo anno, aumentavano. c'erano sempre più studenti disabili. E io poi faccio anche sindacato, e dicevo, me la prendevo col MIUR, dicevo, ma non bastano gli insegnanti di sostegno, ce ne dovete dare più. E il MIUR rispondeva, giustamente, perché poi leggevo le note, non era che parlavo direttamente, però leggevo le note e diceva, ma guarda tu, che noi ogni anno aumentiamo di 10-15 mila unità gli insegnanti di sostegno, e che sta aumentando, ma non ve ne siete accorti? Cavolo. E allora sono andato a vedere, il MIUR pubblica statistiche, lo fa in maniera precisa, lo fa in maniera sempre più precisa da qualche anno. L'ultima statistica che ha pubblicato risale al maggio 2018 e dice che riguarda le disabilità dal 1997, questa è nuova, l'ho trovata da poco, dal 1997 a oggi il numero degli studenti disabili è raddoppiato, il doppio ce ne stanno, siamo arrivati al 3,2%, stiamo parlando su un totale di circa 9 milioni di studenti e studentesse che circolano nelle scuole italiane, è raddoppiato. Ah, ecco perché non c'erano gli insegnanti di sostegno. Ma raddoppiato un po' troppo. È vero che ci sono più strumenti per scoprire le disabilità. Però se è vero che, diciamo, la scienza va avanti, no? Diciamo una cosa scontata, la scienza avanza, avanza pure la prevenzione. Io per quanto ne so, le difficoltà preparto ci sono stati avanzamenti per cui in realtà uno si aspetta che le disabilità dovrebbero anche un po' diminuire. Se è vero che ci sono maggiori sistemi per scoprire la disabilità, ce ne sono anche altri per impedire che questi avvengano. Ora non sono cose che dico io, diciamo che qui sconfino un po', perché poi voglio ritornare al mio campo, che è quello di insegnante, però ormai ha rotto un po' gli argini queste considerazioni, perché ci sono gente come Novara che è un psicopedagogo a Milano, o c'è la rettrice dell'università di Parma, che è una psicologa e che denuncia l'eccesso di diagnosi fatto in questo tipo. Parlo un po' con le voci di altri quando dico, e dico, sto dicendo cose che non sono non appartengono alla mia sfera professionale. Nella mia sfera professionale però appartengono altre cose. Riportiamo altre statistiche, perché mi aspetto professionale, comunque statistiche del MIUR. I DSA dal 2010 sono stati considerati, e secondo me è un bene che nella scuola ci sia attenzione perché ha disturbi specifici d'apprendimento e che ci sia un esperto, chiamiamolo così, che dal primo input mi dice c'è un disturbo specifico d'apprendimento, cercate di starci attenti, mettiamola così. Fatto sta che dal 2010, da quando la Gelmini ha fatto la legge che stabilisce appunto l'attenzione della scuola per i disturbi specifici di apprendimento, anche lì, se uno va a vedere le statistiche, perché anche per le DSA il MIUR pubblica delle statistiche accuratissime anno dopo anno, c'è stato un aumento, vabbè, dall'inizio del 2010 erano zero, se andiamo a vedere dal 2013-14 a oggi c'è un aumento anche qui, esponenziale. L'ultimo è un passaggio da 2,8% a 3,2% nell'ultimo anno. Parliamo di sui DSA, l'ultimo anno in pratica è aumentato del 10%, c'è stato un periodo di 2-3 anni che c'era un aumento al di sopra del 100%, la curva, ora io ho portato il computer ma non si attacca, perché sennò visivamente io parlo, ma l'immagine fa proprio così, va verso l'alto, e sono un po' troppi. Poi c'è l'Associazione Italiana Dislessie, si chiama AID, che dice, oh, ma che stiamo facendo, vedete che siamo indietro rispetto all'Europa, perché lì hanno già raggiunto hanno già raggiunto il 12% di diagnosi di dislessia. Ora qui stiamo parlando di centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze. Però la percentuale che invece danno gli studi neuroscientifici è questo, infatti, perché poi ci sono anche esperti che dicono, ma un conto sono le difficoltà che si risolvono con un'attenzione particolare a scuola e in famiglia, perché qui c'è un grande assente di cui non parliamo, perché ci vorrebbe anche un genitore oltre noi tre, che risolvono con attenzioni particolari in famiglia o a scuola, perché poi è vero, no, che noi insegnanti partiamo male su questa roba qua, perché poi sono costretti a farci la legge, a imporcela, perché da una parte manchiamo noi. La scuola italiana è un gioiello per quanto riguarda le disabilità, siamo gli unici che tengono i ragazzi e le ragazze disabili in classe nel mondo, il 99,9% sono in classe, e questa è una cosa di cui dobbiamo andare fieri, secondo me, fieri poi non si sa. Fieri perché nel nostro territorio è così. Per quanto riguarda le disabilità delle DSA o altri tipi di difficoltà che si incontrano nella vita, la scuola italiana, dicevo, non ha mai brillato. Di solito si tende a vedere la classe come un tutt'uno, a parte, diciamo, tanti e tante insegnanti che hanno questa propensione, spesso sono quelli di sostegno che stanno nella classe, che hanno un po' più di attenzione al singolo. Però non c'è stata un'attenzione didattica proprio costante per vedere il singolo nel gruppo, e per capire la difficoltà, che può essere più o meno momentanea, il rifiuto di leggere, che può essere iniziale e che poi si recupera con il tempo. Non a caso stiamo parlando di età evolutiva, si evolve. Qui stiamo parlando dei bimbi che partono da 6 anni in su e arrivano poi a 18 anni. Noi a scuola accompagniamo persone che le vediamo piccole, vediamo bambini e bambine ed escono fuori uomini e donne. Abbiamo questa piccola particolarità. Ne vediamo, io all'incirca ne contavo, nei miei circa 10 anni l'ho visto un migliaio, perché poi ho cambiato spesso scuola da precario. E sono tanti, 1000 io, 1000 in 10 anni, non mi ricordo quanti siamo tipo 700.000 insegnanti in tutta Italia, e ci passano tutti, tutti qua dentro sono passati in una scuola, tutti, tutti e tutte. Siamo l'istituzione proprio che su questo può dare proprio il polso della situazione. E quello che si vede è che spesso non è così. La domanda è, perché ci deve essere un intervento medicalizzante quando in troppi casi, e questo si vede nell'esperienza che abbiamo di tutti i giorni, in troppi casi si vede che un'attenzione un po' più diretta, più vicina, un'empatia, un saper capire, buttare l'orecchio a cercare di... Lo vedi per tante cose, dalla postura, lo vedi da anche dall'opposizione provocazione, no? Dal comportamento ADHD. Magari ti manda a fanculo un giorno, e che ne sai? Magari glielo dici, non si fa, prendi i tuoi provvedimenti, c'è un linguaggio, un codice, no? Per cui ti fai capire e non mi ci mandi a fanculo come non mi ci manda nessuno, né fuori né dentro la classe, no? Però poi sta a me, adulto e insegnante, capire, ma com'è questo che fino al giorno prima aveva un altro atteggiamento? Sono tante le sfumature, ecco, noi lavoriamo con le sfumature e non ce lo togliete in mezzo questa cosa qui. Allora, questo per dire cosa? Ma no, 5 minuti. Sì, abbiamo già visto voi. Corro. Corro. No, qui è... domande, dobbiamo fargli e chiudo proprio subito. Si inventano i BES, visto... lo so, è l'ultimo dato al volo, i bisogni educativi speciali. Allora, fino a qui parlavamo di cose che i medici ce lo vengono a dire, chi è in camice, eccetera. Dal 2012 c'è un'altra categoria, BES, sono la terza categoria, bisogni educativi speciali. Non sono più diagnosticati, ma sono segnalati o dai genitori, o dagli alunni, o dalla famiglia, o dagli stessi insegnanti, no? E per cui momento che la famiglia ha un problema economici, un lutto, o mi sono lasciato con la ragazza e non ne vengo più fuori, non è che vengono più, qui siamo proprio al paradosso totale, non è che vengono più visti, notati, accompagnati dall'insegnante della famiglia, vengono anche qui diagnosticati con un bel intervento del psicosociale e un piano didattico personalizzato, anche qui dove si scrivono il ragazzo è così e così e così, e magari c'è pure un codice dell'ICD standard medico o del DSM che ti dice a che cosa fa riferimento, e noi siamo come insegnanti, abbandoniamo a questo punto la nostra caratteristica principale, che è quella di cercare di capire, e abbiamo un foglio scritto, timbrato, vidimato con tanto di minaccia di ricorso, che ci dice ora per questi ragazzi devi non farlo leggere a alta voce in classe, non fargli fare compiti per 3 mesi, come se fosse un meccanismo causa-effetto stretto, quando noi lavoriamo con l'evoluzione e magari il giorno dopo non ci si pensa più. Il problema è un po' questo, e però c'è poco tempo, per cui mi farebbe piacere sentire anche qualche parere. Volevo aggiungere una cosa, ma molto tecnica, non sull'argomento. Per chi acquista o legge questo libretto, invito a scaricare le note che sono sul sito. Sì. Perché le note veramente le abbiamo fatte molto corpose, avendo dovuto limitare, no? In un'edizione piccola. Quindi, sì, questi scaricano facilmente. Però, ecco, per noi autori sono importanti. Non so se c'è tempo di dare la parola a qualcuno. Ah, sì. Per approfondire l'argomento, noi... questo libro lo stiamo continuando a portare a giro, saremo a Firenze il 4, venerdì 4 ottobre, e facciamo un'iniziativa sempre con gli autori e come collettivo antipsicotico di Antonio Artaud insieme ai lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali. Che si chiama Assemblea Autoconvocata dei lavoratori e delle lavoratrici. Insieme abbiamo costruito questa assemblea, la faremo allo spazio Inchiostro che è in via degli Alfani alle 18, quindi ci sarà possibilità di approfondire, di avere un dibattito, di fare domande. Insomma, volevo invitarvi tutte e tutti. E se c'è delle domande, non so, noi siamo giù comunque al banchetto del collettivo, se volete venire a fare due chiacchiere loro saranno qua con noi, e i libri anche sono giù. Perché a partire dal febbraio 2018 il CESP, che è il Centro Studi Scuola Pubblica, sta organizzando, e ne fa parte Sebastiano, invitano me e li ringrazio molto a relazionare, sta organizzando vari corsi d'aggiornamento per insegnanti su questo tema. E ritengo che siano appuntamenti molto validi anche per noi stessi, nel senso che possiamo scambiarci le esperienze e tastare meglio cosa succede nei vari territori, e vediamo, notiamo comunque che sono sempre molto partecipati, quindi vuol dire che all'interno della scuola da un lato mancano occasioni di confronto su determinati argomenti per gli insegnanti, però quando queste ci sono partecipano, anche con tutto il disorientamento dovuto anche alle varie circolari, a un casino di documenti che riesco a capire perché un insegnante poi faccia fatica anche a trovare una lucidità interpretativa, perché ci sono tanti di quei documenti che parlano di questi argomenti, uno non sa più qual è l'ultimo più valido, ecco quello valido, quello che sia scaduto, eccetera, eccetera. Quantomeno però c'è volontà di riuscire ad approfondire e ad aprire il dibattito e la riflessione, ecco, perché quello che colgo io da esterna della scuola è che mancano proprio queste occasioni di confronto, anche tra gli insegnanti stessi. Per cui, ecco, giusto se tra di voi ci sono insegnanti e siete interessati anche a parlarne con i colleghi di queste situazioni, sappiate che ci sono anche queste occasioni organizzate dal CESP. Adesso partirà di nuovo tutto un calendario in varie città. Poi non so, penso che a sto punto abbiamo... Sì, mi spiace che non riusciamo a far dibattito, vabbè. Erickson. Mm.